M. 24esima traccia. Uno si immaginerebbe che siamo amiche intime. E Mrs. Weston, stupita che la persona che mi ha educato debba essere una signora. Di male in peggio. Come costei non ne ho mai incontrata una. Molto al di là delle mie speranze. Si fa un'offesa a Harriet a volerla paragonare con lei. Oh, che cosa le direbbe Francesca se fosse qui? Come si arrabbierebbe e si divertirebbe. Ah, ecco qua che mi metto subito a pensare a lui. Sempre la prima persona a cui penso. Come mi colgo in fallo. Francesca ritorna con la stessa regolarità nella mia mente. Tutto ciò le attraversò così rapidamente il pensiero che quando suo padre si fu ricomposto, dopo il trambusto della partenza degli Elton, e si accinse a parlare, essa era tollerabilmente capace di badargli. «Ebbene, cara», cominciò lui, in modo risoluto, «considerando che non l'abbiamo mai veduta prima, essa pare una giovane signora come si deve, e mi immagino che sia rimasta molto soddisfatta di te. Parla un po' troppo rapidamente, una rapidità di voce che offende un po' l'orecchio, ma credo di essere schizzinoso. Non mi piacciono voci a cui non sono avvezzo, e nessuno parla come te e la povera Miss Taylor. Tuttavia, sembra una giovane signora molto cortese e di buone maniere, e senza dubbio sarà una buona moglie per lui. Per quanto io penso che avrebbe fatto meglio a non sposarsi. Ho fatto le migliori scuse che ho potuto per non essere riuscito a far visita a lui e a Mrs. Elton in questa felice occasione. Ho detto che speravo di poterlo fare nel corso dell'estate. Ma sarei dovuto andar prima. Non far visita a una sposa è una gran trascuratezza. Ah, mostra che pietoso invalido io sono. Ma non mi piace quell'angolo sulla via della canonica. Immagino che le tue scuse siano state accettate, babbo. Mister Elton ti conosce. Sì, ma una giovane signora, una sposa, avrei dovuto presentarle i miei rispetti se era possibile. È stata una grande mancanza. Ma babbo caro, tu non sei amico del matrimonio e perciò dovresti preoccuparti tanto di presentare i tuoi rispetti a una sposa? Codesta circostanza non dovrebbe raccomandartela. Se tu ci fai tanto caso, è come se incoraggiassi la gente a sposarsi. No, cara, non ho incoraggiato mai nessuno a sposarsi, ma desidererei sempre tributare ogni debita attenzione a una signora, e una sposa soprattutto non deve mai venire trascurata. È pacifico che ad essa è dovuto di più. Una sposa, tu sai, mia cara, è sempre la prima in una compagnia, sian pure gli altri chi vogliano. Via, babbo, se questo non è incoraggiare il matrimonio, non so davvero che cosa lo sia. E non mi sarei mai aspettata che tu dessi la tua sanzione a tali allettamenti alla vanità delle povere signorine. Mia cara, tu non mi capisci. Questa è una faccenda di pura cortesia ordinaria e di buona educazione. E non ha nulla a che fare con l'incoraggiare la gente a sposarsi. Emma aveva finito. Suo padre stava diventando nervoso e non poteva capirla. La mente di lei tornò agli affronti di Mrs. Elton e questi la occuparono a lungo, molto a lungo. Nessuna scoperta posteriore obbligò Emma a mutare la sua cattiva opinione di Mrs. Elton. La sua facoltà d'osservazione era stata sufficientemente accurata. Quale Mrs. Elton le apparve in questo secondo colloquio? Tale le apparve ogni volta che l'incontrò di nuovo, piena di sé, presuntuosa, troppo confidenziale, ignorante e maleducata. Aveva un po' di bellezza e un po' di cultura, ma tanto poco giudizio che si credeva di venire, con una superiore conoscenza del mondo, ad animare e migliorare un ambiente di provincia, e immaginava che Miss Hawkins avesse avuto in società una tal posizione quale solo l'importanza di Mrs. Elton poteva superare. Non v'era ragione di supporre che Mr. Elton la pensasse diversamente dalla moglie. Non soltanto sembrava felice con lei, ma orgoglioso. Aveva l'aria di congratularsi con sé di aver condotto a Ivory una donna che neanche Miss Woodhouse poteva eguagliare. E la più gran parte delle nuove conoscenze disposte a lodare o non addette a giudicare, seguendo la guida della benevolenza di Miss Bates o accettando per dimostrato che la sposa doveva essere brillante e piacevole come pretendeva lei, rimasero perfettamente soddisfatte. Sicché le lodi di Mrs. Elton passarono di bocca in bocca come di dovere, senza ricevere ostacolo da Miss Woodhouse, che di buon grado continuò il suo primo contributo e parlò con buona grazia di Mrs. Elton come molto piacevole e vestita assai elegantemente. Sotto un certo aspetto, Mrs. Elton diventò anche peggio di quanto era apparsa dapprima. I suoi sentimenti si mutarono nei confronti di Emma. Offesa, probabilmente, dal poco incoraggiamento che avevano incontrato le sue proposte di intimità, si ritrasse a sua volta e a poco si fece più fredda e distante. E sebbene codesto effetto fosse piacevole, il malvolere che lo produceva non faceva di necessità che aumentare l'antipatia di Emma. I suoi modi e quelli di Mr. Elton si fecero sgradevoli anche verso Harriet. Erano sarcastici e trascurati. Emma sperava che questo contegno avrebbe rapidamente fatto guarire Harriet, ma le sensazioni che potevano averlo suggerito causarono a entrambe molto abbattimento. Non si poteva dubitare che l'affetto della povera Harriet era servito d'offerta alla confidenza coniugale e che la parte che Emma aveva avuto nella faccenda, in una luce tutt'altro che favorevole a lei e assai lusinghiera per lui, era stata pure con ogni probabilità rivelata. Essa era, com'è naturale, l'oggetto delle loro antipatie combinate. Quando non avevano altro da dire, doveva riuscire sempre facile cominciare a dir male di Miss Woodhouse, e l'inimicizia che non osavano mostrare mancandole di rispetto palesemente trovava un più ampio sfogo nel trattamento sprezzante di Harriet. Mrs. Elton fu presa da una grande simpatia per Jane Fairfax e fin da principio, non solo perché è uno stato di guerra con una signorina poteva immaginarsi che raccomandasse l'altra, ma proprio di primo acchito. Ed essa non si contentò d'esprimere un'ammirazione naturale e ragionevole, ma senza sollecitazione o pretesto o privilegio, sentiva il bisogno d'assisterla e di esserle amica. Prima che Emma avesse perduto la sua fiducia, e pressappoco la terza volta che si incontrarono, Emma sentì uno sproloquio cavalleresco di Mrs. Elton sull'argomento. «Jane Fairfax è proprio affascinante, Miss Woodhouse. Vado pazza per Jane Fairfax, una creatura dolce, interessante, così mite e signorile e con un talento. Vi assicuro che ha un talento straordinario. Non mi faccio scrupolo di dire che suona divinamente. So abbastanza di musica per esprimere una ferma opinione su questo punto». È proprio affascinante. Riderete del mio zelo, ma parola d'onore, non faccio altro che parlare di Jane Fairfax. E la sua situazione par fatta apposta per commuovere. Miss Woodhouse, dobbiamo sforzarci a tentare di far qualcosa per lei. Dobbiamo lanciarla. Doti come le sue non si deve tollerare che rimangano nell'ombra. Immagino che avrete sentito quegli incantevoli versi del poeta. Spargono in vano lor profumo ai venti molti fiori sbocciati inerme sponde. Non dobbiamo permettere che questi versi trovino una conferma nella soave Jane Fairfax. Non credo che ci sia questo pericolo, fu la calma risposta di Emma, e quando sarete meglio al corrente della situazione di Jane Fairfax e capirete quale sia stato il suo focolare domestico col colonnello e Mrs. Campbell, non credo che supporrete che le sue doti possano rimanere sconosciute. Oh, ma cara Miss Woodhouse, ora essa vive in un tale isolamento, in tale oscurità, è proprio sciupata. quali che fossero i vantaggi che abbia potuto godere col Campbell, sono così chiaramente finiti. E io credo che lei lo senta. Sono sicura che è così. Essa è molto timida e silenziosa. Non ci vuol molto a vedere che essa sente la mancanza di incoraggiamento. Questo me la rende più attraente. Confesso che per me è una raccomandazione. Io sono una grande zelatrice della timidezza e sono certa che non la si incontra sovente. Ma in coloro che sono in una situazione sociale inferiore, è straordinariamente attraente. Vi assicuro, Jane Fairfax è un'anima deliziosa e mi interessa più di quanto io sappia dire. Sembrate sentire parecchio, ma non so come voi o qualche conoscenza di Miss Fairfax, qualcuno di coloro che l'hanno conosciuta da più tempo di voi, può usare un'altra cortesia oltre a «Mia cara Miss Woodhouse, si può fare un bel po' di più da parte di coloro che osano agire. Voi ed io non abbiamo da avere paura. Se diamo l'esempio noi, molti lo seguiranno fin dove potranno, sebbene tutti non godano della nostra situazione. Noi abbiamo carrozze per andarla a prendere e ricondurla a casa. Noi viviamo in uno stile che non si potrebbe mai rendere d'incomodo, quando che sia la giunta di Jane Fairfax. Sarei molto malcontenta se Wright dovesse prepararci un tal pranzo che potesse farmi rimpiangere d'aver invitato a condividerlo altri oltre a Jane Fairfax. Non ho idea di cose di tal genere. Non è probabile che io possa averla, considerando a che tenore di vita sono stata avvezza. Il mio più gran pericolo, forse, nel governo della casa, può essere proprio l'opposto, nel fare troppo e badar troppo poco alle spese. Probabilmente Maple Grove sarà il mio modello più di quanto dovrebbe esserlo, perché non pretendiamo affatto di essere alla pari con mio cognato, Mr. Suckling, nel reddito. In ogni modo, la mia decisione è presa quanto a favorire Jane Fairfax. Certamente l'avrò molto più spesso a casa mia, la presenterò dovunque potrò, avrò ritrovi musicali per mettere in mostra il suo talento e starò costantemente allerta per trovarle un buon partito. La cerchia delle mie conoscenze è così vasta che non dubito di sentir tra breve di qualcosa che le convenga. Come naturale, la presenterò in modo speciale a mio cognato e a mia sorella quando verranno da noi. Son certa che la troveranno simpaticissima. E quando essa avrà fatto un po' di conoscenza con loro, i suoi timori svaniranno del tutto, perché davvero, nei modi dell'uno e dell'altra, non v'è nulla che non sia affabile. Davvero l'avrò sovente con me mentre essi sono qui, e immagino che qualche volta troveremo un posto per lei nell'andò scoperta in qualcuno delle nostre gite d'esplorazione. Povera Jane Fairfax, pensò Emma, questo non ve lo siete meritato. Potrete aver fatto male nei riguardi di Mr. Dixon, ma questa è una punizione che va al di là di quel che vi sarebbe stato bene. La bontà e la protezione di Mrs. Elton. Jane Fairfax qui, Jane Fairfax là. Giusto cielo, speriamo che non osi andare attorno così con il nome sulle labbra, ma parola d'onore, pare che non ci siano limiti alla licenza della lingua di costei. A Emma non toccò di ascoltare di nuovo tali ostentazioni, quelle così esclusivamente indirizzate a lei, decorate così disgustosamente d'un cara Miss Woodhouse. Poco dopo apparve il cambiamento da parte di Mrs. Elton, ed essa venne lasciata in pace. Non fu forzata a essere l'amica del cuore di Mrs. Elton, né, sotto la guida di Mrs. Elton, l'attivissima patrona di Jane Fairfax, e solo venne messa a parte con gli altri, in via generale, di ciò che Mrs. Elton sentiva, meditava, faceva. Emma stette a osservare non senza divertirsi. La gratitudine di Miss Bates per le attenzioni prodigate da Miss Elton a Jane Fairfax si espresse nel più alto stile di ingenua semplicità e cordialità. Mrs. Elton divenne una delle sue eroine, la donna più amabile, affabile, deliziosa, proprio piena di grazia e di degnazione, come Mrs. Elton intendeva d'essere considerata. L'unica sorpresa di Emma fu che Jane Fairfax accettasse quelle attenzioni e tollerasse Mrs. Elton come sembrava fare. Sentì che andava a passeggio con gli Elton, sedeva con gli Elton, passava la giornata dagli Elton. Era una cosa stupefacente. Non si capacitava come il gusto o la fierezza di Miss Fairfax potessero sopportare la compagnia e l'amicizia che offriva la canonica. «È un enigma, proprio un enigma», rifletteva. «Risolversi a rimanere qui un mese dopo l'altro, tra privazioni d'ogni specie, e ora preferire la mortificazione del favore di Mrs. Elton e il vuoto della sua conversazione, piuttosto che tornare dai suoi compagni di tutt'altra levatura che l'hanno sempre amata con un affetto così ingenuo e generoso». Jane era venuta a Highbury ostensibilmente per 3 mesi. I Campbell erano andati in Irlanda per 3 mesi. Ma ora i Campbell avevano promesso alla figlia di rimanere almeno fino alla metà dell'estate ed erano arrivati nuovi inviti perché lei li raggiungesse là. A sentire Miss Bates, tutte le notizie venivano da lei, Mrs. Dixon aveva scritto con grande insistenza. Purché Jane volesse andare, si sarebbero trovati mezzi, si sarebbero mandati servi, si sarebbero procurati amici. Non c'era da preoccuparci delle difficoltà del viaggio. E con tutto ciò essa aveva rifiutato. «Devi aver avuto qualche motivo più forte di quanto non appaia per rifiutare questo invito», fu la conclusione di Emma. «Deve subire una penitenza di qualche genere, inflitta o dai Campbell o da lei stessa. Da parte di qualcuno c'è un gran timore, una grande cautela o una grande risoluzione. Essa non deve trovarsi dove sono i Dixon. Questo decreto è stato emanato da qualcuno. Ma perché essa deve acconsentire a stare con gli Elton? Questo è tutto un altro enigma». Quando essa espresse ad alta voce la sua meraviglia su questo punto, alla presenza dei pochi che sapevano la sua opinione di Mrs. Elton, Mrs. Weston azzardò questa difesa di Jane. «Non possiamo supporre che se la goda molto in canonica, mia cara Emma, ma è meglio questo che restare sempre a casa. Sua zia è una buona donna, ma come compagnia costante deve riuscire parecchio noiosa. Dobbiamo considerare che cosa lascia Miss Fairfax prima di condannare il suo gusto per quello presso cui ripara». «Avete ragione, Mrs. Weston», disse con calore Mr. Knightley. «Miss Fairfax è capace quanto ciascuno di noi di formarsi un'opinione esatta di Mrs. Elton. Se avesse potuto scegliere con chi associarsi, non avrebbe scelto lei. Ma», con un sorriso di rimprovero a Emma, «essa riceve da Mrs. Elton attenzioni che nessun altro le tributa». Emma sentì che Mrs. Weston le dava un'occhiata di sfuggita e rimase colpita lei stessa dal calore di lui. Con un leggero rossore rispose subito: «Attenzioni come quelle di Mrs. Elton mi sarei immaginata che avrebbero piuttosto disgustato che lusingato Miss Fairfax. Mi sarei immaginata che gli inviti di Mrs. Elton fossero tutt'altro che invitanti». «Non mi stupirei», disse Mrs. Weston, «se Miss Fairfax fosse stata trascinata al di là della sua inclinazione dallo zelo della propria zia nell'accettare per lei le gentilezze di Miss Elton. È probabile che la povera Miss Bates abbia impegnato la nipote e l'abbia spinta a una più grande apparenza di intimità di quanto il suo stesso buon senso non avrebbe dettato, nonostante il desiderio naturalissimo d'un po' di cambiamento». Entrambe erano molto curiose di sentire Mr. Knightley parlare di nuovo. E dopo alcuni minuti di silenzio egli disse: «Bisogna prendere in considerazione pure un'altra cosa. Mrs. Elton non parla a Miss Fairfax nel modo in cui discorre di lei. Tutti sappiamo la differenza tra i pronomi lui o lei e tu, i più franchi tra noi. Tutti sentiamo l'influenza di qualcosa al di là della comune urbanità nelle nostre reciproche relazioni personali, qualcosa di impiantato assai prima. Non possiamo far intendere a tutti, è così spiacevole, che possiamo averne fin sopra i capelli dell'ora trascorsa. Sentiamo le cose diversamente. E oltre all'effetto di questo, come principio generale, potete essere sicure che Miss Fairfax mette soggezione a Mrs. Elton con la sua superiorità di mente e di modi, e che a faccia Mrs. Elton la tratta con tutto il rispetto al quale ha diritto. Una donna come Jane Fairfax probabilmente non è mai capitata prima sulla strada di Mrs. Elton, e nessun grado di vanità può impedire che essa riconosca la propria relativa piccolezza nel modo d'agire, se non nel fondo della propria coscienza. «So che alta stima voi avete di Jane Fairfax», disse Emma. Pensava al piccolo Henry, e una mescolanza di allarme e di delicatezza la rese incerta su che altro dovesse dire. «Sicuro», egli rispose, «chiunque può sapere che alta stima io ho di lei». «Eppure», disse Emma, cominciando in fretta e con uno sguardo birichino, ma fermandosi di botto. Tuttavia, era meglio conoscere il peggio, e proseguì di slancio. «Eppure, forse, voi stesso non ve ne rendete conto. Un giorno o l'altro la vostra ammirazione sarà così grande che potrà prendervi di sorpresa». Mr. Knightley stava intento ad accomodare i bottoni inferiori dei suoi spessi gambali di cuoio, e fosse lo sforzo di infilare i bottoni negli occhielli, fosse qualche altra ragione, le vampe gli salirono al volto mentre rispose: «Ah, ci siete arrivata? Ma siete miseramente indietro. Mr. Cole me ne fece cenno 6 settimane fa. Si fermò. Emma sentì premersi il piede da Mrs. Weston e non seppe lei stessa che pensare. Dopo un po' egli proseguì: «Ciò non sarà mai, tuttavia, ve l'assicuro. Miss Fairfax, ci scommetto, non vorrebbe saperne di me se io la chiedessi. E io sono sicurissima che non la chiederò mai». Emma ricambiò la pressione dell'amica con interesse e rimase abbastanza contenta da esclamare: «Non siete vanitoso, Mr. Knightley, questo almeno devo riconoscervelo». Egli non parve udirla, era sopra pensiero, e in un modo che dimostrava che egli non era contento, subito dopo disse: «Così voi avete deciso che io debba sposare Jane Fairfax?» «Neanche per sogno. Mi avete troppo sgridata per combinare matrimoni, perché io presuma di prendermi codesta libertà con voi». Quel che ho detto un momento fa non voleva dir nulla. Si dicono di queste cose, naturalmente, senza annettervi un significato serio. «No, parola d'onore, non ho il minimo desiderio che voi sposiate Jane Fairfax o Jane chiunque. Non verreste a sedervi con noi con tanto agio se foste sposato». Mr. Knightley fu di nuovo sopra pensiero. Il risultato del suo fantasticare fu: «No, Emma, non credo che l'estensione della mia ammirazione per lei mi prenderà mai di sorpresa. Non ho mai pensato a lei in quel modo, v'assicuro». E subito dopo: «Jane Fairfax è una giovane molto affascinante, ma neanche Jane Fairfax è perfetta. Ha un difetto: non ha il carattere aperto che un uomo desidererebbe in una moglie». Emma non poté non rallegrarsi nell'udire che Jane aveva un difetto. «Allora», disse, «suppongo che subito abbiate fatto tacere Mr. Cole». «Sì, sì, subito. Lui mi fece un'allusione in sordina. Io gli dissi che si sbagliava. Egli mi chiese scusa e non disse altro. Cole non ci tiene a essere più accorto o più arguto dei suoi vicini». «Sotto questo punto di vista, com'è diverso da Mrs. Elton, che vuole essere più accorta e più arguta di tutti? Mi domando come parla dei Cole, come li chiama. Come può trovare per loro un appellativo abbastanza basso di volgarità confidenziale? Voi vi chiama Knightley. Che cosa può fare per Mr. Cole?» E così io non devo essere sorpresa che Jane Fairfax accetti le sue cortesie e consenta stare con lei. Mrs. Weston, il vostro ragionamento ha gran peso presso di me. Posso molto più facilmente immaginare la tentazione di scappare da Miss Bates di quanto io non possa credere al trionfo della mente di Miss Fairfax su Mrs. Elton. Non ho nessuna fiducia che Mrs. Elton si riconosca inferiore nel pensare, nel parlare o nell'agire, o che senta alcun freno al di là della sua striminzita regola di buona educazione. Non posso immaginare che non insulti continuamente la sua visitatrice con lodi, incoraggiamenti e offerte di favore, che non le sciorini senza posa le sue magnifiche intenzioni, da quella di procurarle una sistemazione stabile a quella di includerla nelle deliziose gite d'esplorazione che dovranno aver luogo con il landò scoperto. «E Jane Fairfax ha sentimento», disse Mr. Knightley. «Io non l'accuso di mancare di sentimento. Le sue suscettibilità, sospetto, sono forti e il suo carattere eccellente nel suo potere di sopportazione, pazienza, dominio di sé, ma manca di franchezza. Essa è riservata, più riservata credo di prima, e a me piace un carattere aperto. No, fino al giorno in cui Cole alluse al mio supposto attaccamento, non mi era mai passato per capo. Ho veduto Jane Fairfax e ho conversato con lei con ammirazione e piacere sempre, ma senza ulteriore pensiero. Ebbene, Mrs. Weston, disse Emma trionfalmente quando egli le ebbe lasciate, che dite ora riguardo alle nozze di Mr. Knightley con Jane Fairfax? Ebbene, cara Emma, dico proprio che egli è tanto preoccupato dall'idea di non essere innamorato che non mi meraviglierei se finisse con l'esserlo. Non mi picchiare adesso. Ogni abitante di Highbury e dintorni che aveva mai fatto visita a Mr. Elton era disposto a fargli cortesie nell'occasione del suo matrimonio. Furono combinati per lui e la sua signora pranzi e serate, e gli inviti fioccarono a tal segno che presto essa ebbe il piacere d'accorgersi che non avrebbero mai avuto un giorno libero. «Vedo come stanno le cose», ella disse. «Vedo che genere di vita sarà la mia tra voi. Parola d'onore, saremo assolutamente dissipati. Sembriamo proprio di moda. Se questo è vivere in provincia, non mette affatto spavento. Da lunedì a sabato prossimo ti assicuro che non abbiamo un giorno libero. Una donna con meno risorse di me non avrebbe temuto di restare con le mani in mano». Nessun invito le giungeva sgradito. Le sue abitudini di bar le rendevano perfettamente naturali le serate e Maple Grove le aveva dato il gusto dei pranzi. Rimase un po' scandalizzata dalla mancanza di due sale da ricevere, dai miseri tentativi di far torte di società e dal fatto che non c'erano gelati alle partite di carte di Highbury. Mrs. Bates, Mrs. Perry, Mrs. Goddard ed altre erano un bel po' indietro quanto a conoscenza del mondo, ma lei avrebbe presto mostrato loro come ogni cosa andava fatta. Nel corso della primavera, essa doveva ricambiare le loro cortesie con una festa molto superiore, in cui i suoi tavolini da gioco sarebbero stati apparecchiati con le loro candele separate e i mazzi di carte intatti, secondo il vero stile, e sarebbero stati ingaggiati per la serata più camerieri di quanti non ne poteva fornire il loro tenore di vita, per portare attorno i rinfreschi precisamente all'ora giusta e nel giusto ordine. Emma frattanto non poteva sentirsi tranquilla senza un pranzo a Harfield per gli Elton. Essi non dovevano far meno degli altri, o lei si sarebbe esposta a odiosi sospetti e sarebbe stata creduta capace di meschino risentimento.